Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Primo argomento dunque insieme all'Adico di Mestre. Questa settimana, dato che il presidente Carlo Garofolini è in ferie, affrontiamo i due temi con l'avvocato Gioia Barbatole dell'ufficio legale dell'Adico. Ben trovata. Ciao Mirko, buongiorno a tutti. Allora, partiamo dalla stretta attualità anche internazionale che riguarda molti, anche molti del territorio veneto ed europeo, molti potenziali turisti verso l'Egitto. Egitto che, come sappiamo, in subbuglio come altre zone del Medio Oriente. Cosa sta succedendo? Sì, esatto, diciamo che ultimamente sono pervenute in associazione moltissime segnalazioni di nostri soci, i quali ci chiedono come devono comportarsi nel caso in cui abbiano acquistato un pacchetto per l'Egitto, a proprio a causa dei disordini che sono in corso negli ultimi giorni. Ecco, noi come Adico abbiamo innanzitutto verificato la posizione della Farnesina in merito all'approccio che ha, insomma, nei confronti dell'Egitto e nei confronti, insomma, delle vacanze prenotate. E diciamo che la Farnesina per il momento sconsiglia di partire per determinate destinazioni, che sono il Cairo, Alessandria, Suez, Ismailia, Port Said e il Delta del Nilo. Però diciamo che per il momento non ha riscontrato delle anomalie per tutte quelle zone che sono prettamente turistiche, come ad esempio Marsalam, Hurghada, Sharm el Sheikh, Luxor. Ecco, diciamo che il consiglio è quello di partire, o meglio, quello di partire sempre dopo aver verificato tramite il proprio tour operator che in quel territorio non ci sono dei disordini, insomma, dell'ultimo minuto, e di non uscire dal villaggio. Però diciamo che per il momento, almeno notizia delle ultime ore, per quanto riguarda le zone turistiche non ci sono dei grossi disordini, quindi si può partire tranquillamente. Anche perché poi, lo diciamo molto terra a terra, è interesse anche dello stesso Egitto che i turisti continuano ad arrivare, interesse strettamente economico, quindi è chiaro che poi i disordini maggiori succedono nella capitale, ma normalmente uno nella capitale ci va appunto magari se il viaggio è organizzato. Chi va al mare generalmente va nelle zone appunto del Mar Rosso. Tra l'altro c'è una sentenza anche della Corte di Cassazione che riguarda i viaggi organizzati. Cosa dice? Sì, esatto, diciamo che questa sentenza, lo dico in estrema sintesi, allora permette al consumatore di ottenere il rimborso del proprio pacchetto turistico, perché è bene evidenziare che non si tratta di un viaggio preso autonomamente dal viaggiatore, quindi una persona che si prende volo e poi si sceglie una struttura alberghiera in loco, ma parliamo di veri e propri pacchetti organizzati, quindi pacchetti turistici organizzati da un tour operator. Ecco, questa sentenza afferma che nel caso in cui nella destinazione di villeggiatura ci sono dei disordini, il consumatore ha diritto di ottenere il rimborso del pacchetto o il cambio destinazione nel caso in cui quel pacchetto sia strutturato tramite escursioni, o comunque sia strutturato in maniera tale da essere pregiudicato dagli eventi che sono lì in loco. Quindi, solo per esemplificare, nel caso in cui io ho acquistato un pacchetto turistico a Sharm el Sheikh e la maggior parte del mio pacchetto era strutturato con delle escursioni in zone come il Delta del Nilo e il Cairo, in questo caso è evidente che la mia vacanza è pregiudicata, perché la maggior parte del mio viaggio era stato programmato su delle zone all'interno dell'Egitto dove sono in corso dei disordini, quindi che non sono percorribili, e quindi in quest'ultimo caso io posso chiedere di essere rimborsato anche giudizialmente. Mentre nel caso in cui io ho acquistato un pacchetto turistico che si svolge prettamente all'interno di una struttura alberghiera, comunque all'interno di un villaggio, non ho previsto escursioni e diciamo principalmente si svilupperà in una zona che non è toccata da questi disordini, in questo caso io non ho diritto di ottenere un rimborso. Perché? Perché non c'è la necessità, quindi non c'è un nesso causale fra il danno cioè fra la richiesta di risarcimento danno e la cancellazione o la mancata partenza. Ecco, quindi diciamo che anche la posizione che, cioè, anche noi di Adico abbiamo una posizione che, insomma, non può dirsi uguale per tutti, ma deve essere calibrata in base al caso concreto, dipende dal tipo di viaggio che una persona ha scelto e dalla zona soprattutto. Altra cosa è se uno appunto decide per prudenza alla fine di non partire, altra cosa è se il viaggio viene annullato o modificato. Sì, esatto. Diciamo che noi, come dico, il primo consiglio che diamo è quello di contattare il proprio tour operator, magari tramite la propria agenzia, e quindi di chiedere prima di tutto, possibilmente per iscritto, la possibilità di cambiare destinazione e quindi di scegliere una soluzione alternativa, proprio per il fatto che sono in corso questi disordini, magari una persona psicologicamente non potrebbe vivere quel tipo di viaggio come una vera e propria vacanza rilassante. Dopodiché, nel caso in cui il tour operator si rifiuti di cambiare destinazione e il consumatore decide ugualmente di cancellare, di annullare il proprio viaggio, in questo caso, come dicevo prima, bisognerà analizzare il caso in base al concreto, per verificare se è il caso o meno se sono i presupposti per ottenere o meno il ristoro di quanto pagato. Ricordiamo che sul sito associazionedifesaconsumatori.it c'è un'apposita sezione dedicata proprio alle vacanze. Sì, nel nostro sito c'è uno spazio apposta dedicato alla vacanza, che è rubricato vacanza informata, dove oltre a dare tutta una serie di consigli per come affacciarsi alle vacanze in maniera tale da effettuare nel modo più sereno possibile, diamo anche tutta una serie di rimedi nel caso in cui le vacanze siano state in qualche modo rovinate o pregiudicate per qualsiasi motivo. Ricordiamo anche il sito del Ministero degli Esteri, dove si parla appunto di tutti i viaggi al di fuori dell'Italia, che è viaggiaresicuri.it. Grazie intanto all'avvocato Gioia Barbato dell'Ufficio Legale dell'Adico, ci ritroviamo con un altro argomento. Grazie a te, buongiorno a tutti. Diritti e rovesci. In collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.